Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se... E allora, proprio con Gianluca da Novara vogliamo iniziare. Grazie, buongiorno a tutti. Senta, due domande per il professore. Due, posso? Sì. Va bene, dai, dai Gianluca, proprio perché è il primo. La prima è... Si sta allargando, Gianluca. Vai. Sì, in effetti io ho messo qualche chilo. Insomma, Gianluca ha un po' un problema con i fari, insomma, è la sua fissazione. Quanti anni ha Gianluca? Ne ho 42. Mamma mia. Tra l'altro ho paura che tra un po' mi si scaricherà il telefono. Non occupatemi il telefono. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Alimentare a limone meno 5 o 50 così butto ai meno 10 buon ferraresi monferi d'aglia zuccherino ma 45 più cementieri e termiti. Chi ci segue la riconosce senz'altro, questa canzone di Lucio Dalla, La Borsa Valori, ci accompagna sempre nelle nostre puntate dedicate all'esplorazione del mondo dei mercati finanziari. Bentornati a Cuore Denari, oggi sono da sola. Allora vi chiedo immediatamente di tenermi compagnia per tutta la durata del nostro programma chiamando come sempre l'800240024 e la puntata di oggi è dedicata nella prima parte a chi investe i propri risparmi e quindi prova a seguire, immaginiamo, anche le notizie relative a borsa e finanza, notizia che commenteremo oggi con due ospiti che tra poco vi presento. Cercheremo di darvi, se possibile, anche se non possiamo sbilanciarci più di tanto perché ogni scelta va fatta secondo criteri strettamente personali, ma cercheremo di darvi qualche consiglio per orientare i vostri investimenti. Quali dubbi avete in questo momento? Cosa vi preoccupa? La crisi economica, l'atteggiamento delle banche centrali, la vostra situazione personale, il mondo del lavoro che è in grande difficoltà, il trend della borsa delle ultime settimane certo non è totalmente rassicurante. Sono tanti gli avvenimenti che giocano un ruolo molto importante. Persino l'Ebola ci si è messa nelle ultime ore. Ma abbiamo anche le decisioni delle banche centrali. Ieri sono state diffuse le cosiddette minute della Banca Centrale Americana, cioè i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve. Abbiamo avuto poi la riunione, lo ricorderete, a Napoli della scorsa settimana della Banca Centrale Europea, che in una giornata ha mandato in grande difficoltà i listini azionari. Abbiamo poi i giudizi che sono spesso negativi da parte degli analisti e poi le preoccupazioni che vengono espresse dagli osservatori internazionali. Basta citare le ultime previsioni formulate dal Fondo Monetario Internazionale. Metteremo tutto questo al centro della nostra prima pagina di trasmissione, quella dedicata ai denari, che ci vedrà impegnati stamattina fino alle 12. Non ci dimenticheremo però del cuore, perché se i mercati scendono, invece l'ago della bilancia sembra sempre voler salire. Domani è la 14ª edizione dell'Obesity Day, cioè la giornata dell'obesità, la giornata di sensibilizzazione sull'obesità. In Italia il numero delle persone obese ammonta a circa, pensate, il 20% della popolazione adulta dai 18 anni e più, e oltre il 54% della popolazione risulta comunque in sovrappeso. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il sovrappeso è dannoso quasi come il fumo. Ogni 15 kg di peso in eccesso fanno perdere, pensate, fra gli 8 e i 10 anni di vita. E noi ne approfitteremo per parlare insieme ai nostri esperti dell'importanza di mantenere o recuperare il peso forma per la nostra salute e per quella dei sistemi sanitari. Perché l'obesità si correla a malattie invalidanti che rappresentano costi elevati da fronteggiare. Allora, anche per questo tema, 800 24 00 24, cominciate a prenotare i vostri interventi, ne discuteremo con voi dopo il GR delle 12. La visita di Renzi a Londra, il premier italiano parla dello scontro tra Germania e Francia sul rigore. Sto con Parigi, dice Renzi, la Merkel non può trattarci come studenti. Dalla BCE 1.000 miliardi in 2 anni per dare ossigeno alla ripresa, ma mercati giù in tutta Europa, Milano perde quasi il 4%. Draghi frena la ripresa, pronte nuove misure, giù la borsa, Milano perde quasi il 4%, la peggiore in Europa, a Napoli corteo e scontri contro la BCE. L'incubo Ebola arriva anche in Europa, un'infermiera 44enne di Madrid è stata contagiata dal virus dopo aver curato un missionario rimpatriato dalla Sierra Leone. Come sentite, sono davvero tanto le notizie sul piatto e presentiamo allora i nostri ospiti che ci aiuteranno un po' a decifrare queste informazioni che naturalmente condizionano poi l'andamento dei mercati finanziari e di conseguenza anche i nostri risparmi. Buongiorno Simone Filippetti, collega della redazione Finanza del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi. Autore tra l'altro, e poi ne parleremo anche nel corso del libro che il secondo ospite mi deve ridare e restituire, eccoci qua, Serenissimi Affari, Veneti in Borsa fra splendore e declino, appunto Simone Filippetti del Sole 24 Ore. Lo ricordo ancora e vi racconteremo poi che cosa contiene anche questo volume. Alberto Foà, presidente di A come A SGR, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Parleremo con Foà dell'andamento dei mercati, di come è meglio orientare i propri risparmi in questo momento, ma anche di tante iniziative di divulgazione finanziaria, di educazione finanziaria che questo gruppo conduce sul territorio, particolarmente su Milano, ma poi naturalmente quando ci si vuole informare si possono anche prendere a spunto queste iniziative per lavorare un po' come dire in via personale, per informarsi un po' di più su argomenti che spesso risultano un po' difficili da comprendere. Vorrei iniziare la nostra trasmissione chiedendo ad entrambi un commento sulle ultime giornate di borsa, sulle ultime settimane che hanno visto un po' tornare la fibrillazione tra le borse. Ci sono tante ragioni per cui questo accade, un po' perché abbiamo avuto tutta questa liquidità che hanno erogato le banche centrali, che al momento, come dire, hanno anche un po' esaurito, no, le cartucce da sparare per ridare sostegno all'economia. Foà, comincio con lei un po' su un commento generale per poi andare magari a casi un po' specifici secondo quello che chiederanno anche i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Questa discesa ci voleva degli ultimi giorni? Era ora, visto che qualche piazza viaggiava sui massimi da un po'? Beh, diciamo, sicuramente ci sono piazze che sono più sui massimi e piazze che lo sono meno. La borsa americana rispetto ai minimi segnati nel 2009 ha triplicato e quindi è sicuramente su livelli molto elevati. Per quanto riguarda Piazza Affari, per quanto riguarda la borsa italiana, era salita parecchio nell'ultimo anno, ma è ancora ben lontana dai massimi. Questo è dovuto da una parte al fatto che l'Europa e l'Italia sono un po' più indietro sulla strada della ripresa, e dall'altra parte è dovuto al fatto che il nostro listino è molto pesato su titoli finanziari, bancari, assicurativi, che certamente sono ancora in una fase di difficoltà. Mm-hmm. Foà, proprio ieri è partito a Milano, al Teatro Franco Parenti, un nuovo ciclo di incontri proposto da voi, appunto di A come A, che ha un titolo che dice tanto e dice molto: La verità, vi prego, sul denaro, tutto quello che avreste voluto sapere ma che non hanno mai voluto spiegarvi. Attori ed economisti salgono sul palco appunto di questo teatro milanese per raccontare in maniera divulgativa economia e finanza ai non addetti ai lavori. Questo è il secondo anno che voi organizzate questa iniziativa. L'anno scorso veramente un boom di presenze, so che anche ieri sera è andata molto bene. Com'è nata questa iniziativa e che tipo appunto di spirito vi ha mosso? Ma diciamo, il segno distintivo di A come A è sempre stato quello di rendere l'investitore più consapevole e meno preda di miti o a volte anche falsi miti che gli intermediari finanziari propongono. E quindi la strada lungo la quale noi ci muoviamo è quello di dare agli investitori o ai risparmiatori gli strumenti per poter anche capire cosa si muove nel mondo dell'economia e della finanza. Questo secondo ciclo, che è iniziato ieri sera parlando degli accordi di Bretton Woods, quelli che la conferenza internazionale che ristabilì il sistema monetario internazionale nel 1944, verrà seguito da altre tre serate. La prossima sarà il 3 novembre, poi ce ne sarà un'altra il 19 gennaio e un'altra il 16 febbraio, e che avranno come caratteristica distintiva il trattare temi economici in maniera, diciamo, piana, comprensibile e anche spettacolare. Certo, tanto per convincere anche i nostri ascoltatori di questi, per esempio, di questo tema, di questa modalità di racconto che avete voluto dare appunto a questo ciclo di incontri, ci sarà anche Geppi Cucciari, no? Tanto il 3 novembre, esatto. Ci sarà Geppi Cucciari che parlerà dell'evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia, col professor Vecchi, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama In ricchezza e in povertà, e parla dell'evoluzione del benessere degli italiani dal 1861 a oggi. Ci saranno temi economici ed extraeconomici, come nutrizione, statura, salute, lavoro minorile, disuguaglianza, istruzione, vulnerabilità, costo della vita e povertà, e quindi sarà una serata, diciamo, sia seria che spettacolare. L'ingresso è libero. Esatto, infatti, per registrarsi importante. Si può fare sul sito acomea.it e registrarsi nell'apposito spazio. Benissimo. Peccato che queste siano iniziative prevalentemente milanesi sul territorio, però insomma, se ci si impegna un po', magari qualche iniziativa di divulgazione di temi finanziari appunto si trova senz'altro. Bisognerebbe appunto un po' che tutte le città fossero come Milano. Certo, siamo stati già contattati da teatri di Roma, Venezia e Torino, e quindi ottimo, visto che queste serate hanno avuto grande successo, lo porteremo anche in queste città. E insomma, conoscere le dinamiche finanziarie è molto importante, si possono divulgare informazioni pratiche e concrete anche a teatro. Intanto gli ascoltatori cominciano a scriverci, sollecitati dalla prima domanda che ho fatto: quali sono un po' i temi che vi preoccupano di più in questi momenti, in questo momento, quelli che vi incuriosiscono. Lello ci scrive: voglio cambiare il mutuo da fisso a variabile, me lo consigliate? Magari, Lello, di questo argomento parleremo in un'altra trasmissione, se vuole ci scriva in privato. Come mia figlia, gentile Deborah, ecco, Massimo mi dice che insomma sua figlia si chiama come me, ci spiega cosa intende Draghi quando dice userò strumenti non convenzionali. Magari aiutatemi un po' su questo argomento, perché abbiamo visto come le ultime settimane, anzi diciamo che forse da qualche anno a questa parte, le borse siano correlate direttamente alle decisioni e alle scelte fatte dalle banche centrali. Foà, mi aiuti lei per un attimo. Draghi dice userà strumenti non convenzionali, oltre a tutti gli strumenti che ha già messo in campo per aiutare l'economia a riprendersi un po'. Questi strumenti non convenzionali che cosa sono? I famosi acquisti di titoli di Stato sulla scia di quello che ha fatto la Banca Centrale Americana? Esattamente, la Banca Centrale Europea è l'unica banca, diversamente da quello che hanno fatto la Banca del Giappone, la Federal Reserve, cioè la Banca Centrale Americana, e la Banca Centrale Inglese, di aumentare l'offerta di moneta immettendo sul mercato direttamente più ampie quantità di monete, quindi acquistando non solo titoli di Stato ma anche obbligazioni private. Infatti l'Europa è una delle aree che è più indietro sulla strada della ripresa economica. Una delle caratteristiche di questa crisi è che non è una recessione normale, è una recessione che è arrivata dopo una crisi bancaria. E normalmente le crisi bancarie mandano l'economia in recessione per periodi di tempo molto lunghi, per un fatto semplice, è che le banche devono in qualche maniera riconsolidare i propri bilanci, e quindi dopo una crisi bancaria sono molto più caute nell'estendere il credito. Questo significa che la politica monetaria classica, quella di abbassare i tassi di interesse, non funziona, perché, come si dice in gergo, è impossibile spingere una corda, cioè le banche ricevono dalla banca centrale grandi dosi di liquidità che però non estendono all'economia. La strada non convenzionale lumeggiata a Draghi sarebbe proprio quella di aumentare l'offerta di moneta con acquisti di titoli direttamente al mercato, in maniera tale da far pervenire questa più ampia offerta di moneta anche direttamente al mercato, senza passare per i canali bancari. Certo. Perché queste strategie, FOA, devono interessare anche un piccolo risparmiatore? Devono certamente interessare un piccolo risparmiatore, perché ancorché sembri una questione molto tecnica, è proprio al centro della nostra vita di tutti i giorni. Tutti quanti ci scontriamo sulla difficoltà, le piccole aziende si scontrano con la difficoltà a reperire mutui, chi vuole comprare una casa anche si scontra con la difficoltà a reperire mutui. Quindi sono necessarie politiche non convenzionali, perché i normali strumenti di mercato non riescono in una situazione di crisi bancaria a far ripartire l'economia come appunto nelle recessioni classiche. E quindi dalla decisione della banca centrale dipende la vita e il benessere economico di tutti noi. Anche se poi, appunto, come già molti ascoltatori cominciano a segnalare, in questi anni molto poco delle politiche monetarie delle banche centrali si è trasferita all'economia reale, una lamentela che naturalmente soprattutto il sistema imprenditoriale fa, ma magari ne parleremo dopo. Simone Filippetti ci porta a Cuore Denari, intanto perché è un giornalista finanziario, ma un vero e proprio uomo di Cuore Denari. Molinari, perché ricordiamo che tu hai anche parallelamente all'attività di giornalista finanziario un'altra attività, che è quella di animare un sito che si chiama Corpore Sano Magazine. Sì, esatto. Ecco, a sorpresa ragione. Lo ricordo, no, perché so che sei molto attento anche al tema dell'alimentazione e dello sport. Non è che poi le nostre vite si devono necessariamente scindere, no, in due, o si fa, o ci si occupa di finanza o del resto. No, esattamente, anzi, le due cose sono abbastanza correlate tra di loro, quindi come dire, questa mattina faccio un po' le veci della tua, della tua collega. Esatto, poi magari ci racconti allora anche, visto che parleremo nella seconda parte della trasmissione proprio di lotta all'obesità e di lotta al peso, che invece, come dire, a scendere fa sempre un po' fatica. Esatto, altro, mentre tu parlavi mi veniva in mente un ricordo personale. Anni fa ero in America, e parliamo di 5-6 anni fa ormai, e lì la CNN fa una trasmissione, una delle tante trasmissioni di punta del network americano, si chiama Fat Nation, cioè la nazione dei grassi, e dove, e, come dire, elencano i vari casi di, non solo storie curiose, ma è un problema, questo sì, che coniuga finanza e salute, perché il costo sociale delle persone obese è forse la voce di spesa più alta nella sanità americana, e quindi andare a capire, come dire, come mai l'obesità si sta diffondendo non è solo una questione, se volete, di fitness, ma anche strettamente finanziaria e l'America economica. Da questo punto di vista è il paese delle grandi contraddizioni, perché c'è o il fitness spintissimo, no, quindi questi uomini e queste donne in forma fisica strepitosa, oppure l'obeso radicale, quindi diciamo una via di mezzo molto difficile trovare. Sì, devo dire che c'è anche una correlazione, se vuoi, geografica. Trovate persone molto, molto in forma, molto attente, quasi direi maniacalmente attente alla forma, allo sport nelle grandi metropoli, New York, Los Angeles, Boston, e poi nella grande fascia, famoso Midwest, una grande fascia in mezzo fra le due, tra la East e la West Coast, è lì che c'è il più alto tasso di obesità. Quindi anche questo è interessante da, eventualmente, da, come dire, da analizzare, da studiare. Ritorniamo invece all'analisi che hai fatto tu a casa nostra. In un'area del nostro paese appunto molto vivace dal punto di vista imprenditoriale e finanziario, quella del Triveneto, e hai pubblicato appunto da poco questo libro Serenissimi Affari, il Veneto come protagonista sui nostri mercati, prima come grande trascinatore e poi come una realtà di fronte a molte incognite. Che tipo di analisi hai fatto, e perché questo è un libro che secondo te lo possiamo consigliare anche ai nostri ascoltatori, piccoli risparmiatori? Assolutamente sì, perché è un libro dove c'è tanta analisi fondamentale, dove si racconta con uno stile che non è quello, come dire, un po' chiaramente scarno dei numeri, che può essere quello dei report finanziari o della cronaca finanziaria stretta, ma in maniera un po' più, se volete, discorsiva. Chi è riuscito a creare valore, chi invece l'ha distrutto in borsa, e quindi questo credo possa essere di aiuto anche al piccolo risparmiatore che voglia in qualche modo districarsi o abbia anche solo piacere a capire come vanno le cose delle aziende e dell'economia. È un libro nato dall'idea del fatto, partendo da un'idea, se vuoi, molto semplice. Il Veneto è stato sostanzialmente una sorta di locomotiva, di laboratorio economico per il nostro paese. Sì. Il boom, non a caso il boom delle PMI, dei distretti del Veneto, è iniziato in un momento peraltro molto analogo a quello attuale. Vi ricorderete, inizio anni 90, con il paese che era in una situazione molto difficile, politica, Tangentopoli, gli arresti, una classe dirigente che era politica totalmente azzerata dagli arresti, un'economia altrettanto in difficoltà. Vi ricorderete la famosa speculazione di Soros sulla lira, il famoso intervento di Amato nottetempo sui conti correnti, il famoso prelievo. Non evocare la patrimoniale lì, perché sai che qua ogni tanto qualcuno la ricorda, quella vicenda lì. Però paradossalmente o stranamente, in un momento che sembrava nerissimo per il paese, si gettarono i semi attraverso i quali una zona, una regione d'Italia, non solo il Veneto ma diciamo il nord-est in generale, iniziò in qualche modo a innovare, a trovare un modello economico di sviluppo che ci ha dato benessere e ricchezza per i vent'anni successivi. Peccato poi però che questo, come tutti i sistemi, poi le cose passate alla data innovativa tendono in qualche modo a fermarsi. Oggi troviamo una situazione simile, abbiamo una situazione politica assolutamente incerta e di difficoltà, non solo più nazionale ma anche continentale, europea. Abbiamo un'economia che ha tantissime difficoltà, e quando sento dire che la ripresa stenta, ma io non vedo nemmeno la ripresa in questo paese, io sono un paese in una recessione profonda, radicale, sì, totale. E quindi c'è necessità di trovare un nuovo sistema economico che dia benessere ai cittadini. Quindi tornando al libro, appunto, che tipo di relazione hai fatto rispetto ai fatti? La relazione che ne viene fuori è che in realtà chi è riuscito in qualche modo oggi vince chi riesce a essere globale e vende su tutti i mercati, che può essere una, come se vuoi, una affermazione banale che sentiamo sempre dire, però andando a vedere come poi ogni singola azienda ci riesce e ci si rende conto che se sei riuscito a diventare una Luxottica, un autogrill, sei diventata una grossa azienda globale, hai chance di successo. Se sei rimasta un'azienda legata al mercato interno, hai oggi veramente poche possibilità di sopravvivenza. Insomma, quindi hai parlato di società peraltro anche quotate in borsa, e ne parleremo appunto di queste. Luxottica ha fatto tanto parlare anche di sé nelle ultime settimane per questa uscita di scena anche abbastanza dirompente. L'amministratore delegato che ha portato a grande successo l'azienda mondiale, direi, Andrea Guerra. Poi vedremo appunto quanto conta anche la qualità di un manager per la guida di società come queste. 800 24 00 24, intanto, per continuare a prenotare su tutti questi argomenti i vostri interventi. Dopo i mercati sentiremo Salvatore da Cosenza, che si è già prenotato appunto al nostro numero verde. Leggeremo anche tantissimi messaggi che ci state scrivendo. A tra pochissimo. Cuore e denari. Comprendo la sua suscettibilità. Anche per me il sovrappeso era un problema. Vuole dire che sono grassa? No. Dico solo che so che significa. Insomma, voglio dire, lo so ancora, lo sappiamo entrambi. In effetti noi mangiamo per riempire un vuoto, giusto? Ma appena ho cominciato a mangiare più sano, ho notato che non ero più di cattivo umore. E poi sa una cosa? Anche la pelle migliora. Può tenermi questi? Certo. Mercati che scendono, chili che aumentano, anche la vostra bilancia la pensa così? Non riuscite a capire come mai l'ago è sempre lì? Ne parleremo con i nostri esperti a partire dalle 12. Voi intanto prenotatevi al nostro numero verde 800 24 00 24. La mia fidanzata milanese non è donna di pretese, pensa sempre al cia cia cia. Non le importa niente dei milioni, vuole solo buone azioni della borsa di Milano. Breda, Eridania, Iri, Mediobanca. E come ho già detto tante volte, di queste società citate nel cia cia cia della borsa c'è solo Mediobanca, perché per il resto, Simone, sono tutte scomparse. Esatto. E ci sono però ancora Luxottica, quelle che tu citi nel tuo libro, naturalmente poi la famiglia Benetton attraverso Edizione Holding partecipa a tante altre aziende. Sì, insomma, Autogrill, World Duty Free e Atlantia ADR adesso. Giorni non facili per loro, perché... Già venivano da alcune situazioni di criticità, e poi, come dire, questa fatalità dello scoppio di casi di Ebola a Madrid ha costituito una nuova tegola, visto che i Benetton sono di Ponzano Veneto, quindi profonda provincia del nord-est, ma hanno grossissimi interessi in Spagna, visto che tramite World Duty Free, che gestisce appunto questi negozi a tasse zero negli aeroporti, anche Autogrill, che ha alcune concessioni di ristorazione sempre negli aeroporti, di fatto ha in mano tutti gli scali del paese iberico, quindi da Madrid, Barcellona, Siviglia, eccetera. E quindi i timori fondati, comunque l'effetto chiaramente panico che si è ingenerato dopo le notizie che sono arrivate sul paziente di Madrid e altri sotto osservazione, chiaramente ha fatto scendere tutto quello che sono i titoli legati al traffico aereo, anche certo. Le compagnie aeree sono regolate sul timore che chiaramente ora ci sarà un crollo dei turismo, quantomeno anche banalmente dei viaggiatori che transiteranno in Spagna. Oggi l'America ha detto che metterà una sorta di contromisura alla febbre tutti coloro che partono dai paesi a rischio, quindi immagino che se uno da Madrid va a New York gli misureranno la febbre, sì, quando arriva. Esatto, quando parte. Questo anche per spiegare ai nostri ascoltatori che molto spesso, anche se, come dire, si impegnano tanto, Alberto Foà, a studiare i fondamentali delle società, no, per investire nelle aziende quotate, e si impegnano naturalmente a valutare tutte le varie voci di bilancio, eccetera, per fare un investimento pienamente consapevole, poi arrivano naturalmente fattori completamente incontrollabili che naturalmente condizionano la prestazione delle società quotate, come in questo caso Ebola, e qualche volta capita lo stesso anche un po' con le crisi geopolitiche. Abbiamo visto la primavera araba qualche anno fa, ma insomma lì c'è fermento continuamente in queste zone, quindi dobbiamo essere sempre un po' attenti a 360 gradi. Beh, diciamo, gli eventi imprevedibili sono per definizione imprevedibili. Certo. Il rischio però è importante non solo subirlo ma anche gestirlo. Faccio l'esempio di Ebola. Ebola certamente è un rischio per World Duty Free o per chi gestisce gli esercizi in aeroporto, però a un certo punto passerà, adesso magari durerà un po' di più, durerà un po' di meno, quindi è importante distinguere, diciamo, fra quella che è l'assetto normale, strategico della società e quelli che possono essere dei blip, diciamo, delle momentanee salite o discese dovute a fattori straordinari di cui tutto sommato in certi casi si può anche approfittare. Ah sì, ecco, in che modo? Ci spieghi un po'. Beh, che... normalmente questi casi che assurgono all'onore della cronaca e che producono rapide salite o rapide discese possono anche essere sfruttati per comprare o per vendere in controtendenza. Questo è quello che facciamo noi quando gestiamo i fondi. Comprare sui minimi, vendere sui massimi. Beh, comprare sui minimi e vendere sui massimi è impossibile, però certamente è possibile, è meglio, diciamo. Comprare sui minimi e vendere sui massimi è impossibile perché per definizione il minimo e il massimo lo si conosce solamente dopo. Però certamente è meglio comprare a prezzi bassi e vendere a prezzi alti che non fare il contrario. Ed è bene naturalmente che questo lo faccia un investitore professionale, per cui affidiamoci anche a chi ne sa un po' più di noi. 800 24 00 24, questa mattina, come dire, temi finanziari a 360 gradi. Avevamo promesso che avremmo sentito Salvatore da Cosenza, che salutiamo. Salvatore, buongiorno. Qua rimettiamo un po'. Buongiorno a voi. In pista il tema del rapporto con la banca, che non sempre ci accontenta, no Salvatore, nelle nostre richieste. Benvenuto. Ma io sono una vittima di questo stato, in effetti, perché partiamo da lontano. Una volta gli stati facevano le guerre, perché dici che dopo la guerra c'erano le ricostruzioni e rinasceva tutto il finanziario. Oggi che siamo tutti in ginocchio, io un pochino forse più degli altri, no, però è antipatico dire così. Il mio problema le dico subito qual è. Sì. Io ho ereditato la casa dei miei genitori. Sì. Ho quindi una seconda casa, con una sto pagando la mia, sto pagando il mutuo, quella sto cercando di fittarla, però nessuno mi paga. Mia moglie è la stessa cosa, ha ereditato la casa dei genitori perché siamo persone grandi. Sono andato alla mia banca per poter pagare le tasse. Le tasse. Quali tasse? E allora mi hanno prestato 15.000 euro all'11%, però non loro proprio, la banca, una loro finanziaria, una loro protetta. Allora Salvatore, questo magari non è un tema proprio, come dire, attinente alle questioni che stiamo affrontando questa mattina, anche se poi parlando di banche centrali che danno i soldi alle banche, tutto sommato vorremmo anche vedere un mondo in cui il credito bancario costasse un po' di meno e non strozzasse tanto appunto le persone che ne hanno bisogno. Non so, vogliamo commentare se volete, Salvatore. L'ascoltatore, Simone, secondo Filippi, me indirettamente in realtà dice, perlomeno fa emergere una di quelle che è un problema oggi in Italia. L'Italia è un'anomalia, siamo il paese col più alto tasso di case di proprietà, siamo oltre il 90%, siamo l'unico paese al mondo. Negli altri paesi cosiddetti evoluti, occidentali, cui noi sempre ci ispiriamo, del libero mercato, in realtà la maggior parte delle persone vive in affitto, non in proprietà. Questo signore ha, paradossalmente, se non ho capito male, 3 immobili di proprietà. Infatti. Però ha bisogno di liquidità. Allora, come sempre, come dice sempre Giuliani di Azimut, poi tu ti hai la casa, ma la casa non ti, dire, non ti dà il dividendo a meno che tu non riesca ad affittarla con successo. C'è un problema ulteriore di cui si parla poco. In realtà il valore degli immobili è sceso molto, quindi se io ho un patrimonio immobiliare, 10 anni fa questo patrimonio era un asset in portafoglio, certo, che valeva 100, facciamo, oggi questo asset di portafoglio, sempre non liquidabile, però vale 90, quindi diciamo la mia leva potenziale, la mia ricchezza estraibile da questi immobili in realtà è molto calata. E quindi così dice che l'Italia è un paese ricco perché tutti hanno la casa, sì è vero, però poi la casa non mi dà la liquidità, quindi credo che questo piccolo mm-hmm. esempio sia anche significativo di una stortura che andrebbe in qualche modo sanata. Poi certo. su perché gli abbiano applicato questo tasso da usura, sicuramente dovrebbe rivolgersi forse, come dire, perché agli ufficiali volta. Giudiziari. Esatto. Allora, 800 24 00 24, intanto per continuare un po' a toccare i temi finanziari del momento. Nei giorni scorsi, Alberto Foà, il mercato obbligazionario è andato un po' sulle montagne russe, perché è successa questa cosa negli Stati Uniti che magari, come dire, agli italiani interessa poco, però in realtà poi a chi investe sul mercato obbligazionario interessa parecchio, no? C'è stata questa uscita di scena di questo signore che si chiama Bill Gross, il fondatore di uno dei più grandi, anzi forse il più grande fondo obbligazionario al mondo, quello di PIMCO. Lo ricordiamo, ha in gestione questa società qualcosa come 2.000 miliardi di dollari. Il signor Gross ha detto di aver commesso anche qualche errore previsionale, no? Ha fatto qualche previsione sbagliata, e poi la società che controlla il mercato americano, la SEC, ha messo anche sotto osservazione alcune delle sue gestioni. Detto questo, mercato obbligazionario, lei oggi ha fatto tutto questo ragionamento per chiederle un po' un commento sull'andamento del settore obbligazionario. I tassi sono ai minimi termini, insomma vale ancora la pena mettere un po' dei propri soldini in questa asset class, come si dice in gergo finanziario? Beh, indubbiamente con i tassi a zero nelle principali valute, in yen, in dollari, in euro, investire oggi in obbligazioni è un po' rischioso, perché è chiaro che da zero i tassi possono solo salire, certamente non possono scendere, e quindi, come tutti o molti sanno, quando i tassi salgono i prezzi delle obbligazioni scendono. I tassi sono a zero nella parte cosiddetta breve della curva, cioè per impieghi fino a 1, 2, 3 anni. Un BTP a 2 anni oggi rende una frazione, uno 0, qualche cosa. Titoli di Stato a più lungo termine rendono il 3,5 se parliamo dell'Italia, l'1, se parliamo dei titoli di Stato tedeschi, ma è chiaro che in sé hanno implicita una rischiosità piuttosto elevata. Se i tassi sui titoli di Stato a 10 anni in Germania salissero di un punto, certo, quindi andassero dall'1 al 2, chi li possiede andrebbe incontro a una perdita in conto capitale di 7-8 punti, e quindi oggi il mercato obbligazionario delle principali valute è molto rischioso. Ci sono invece tassi più appetibili o molto più appetibili emessi da altri stati come la Russia, il Brasile, il Messico, il Sudafrica, la Turchia, che però evidentemente hanno rischi di tipo valutario, cioè la lira turca piuttosto che il peso messicano o il rand sudafricano possono salire, possono scendere, e quindi questi rendimenti più elevati portano con sé anche una, come sempre, una rischiosità più elevata. Ecco perché insomma è bene avere un giardinetto con una rappresentatività abbastanza adeguata di una tutte diversificazione, queste, esatto, certo, di tutte queste situazioni appunto mondiali. Peraltro, a proposito di mercato obbligazionario, adesso andiamo in pausa perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Vale la pena ricordare che settimana prossima il Tesoro italiano va di nuovo sul mercato con un nuovo BTP Italia, ma insomma uno strumento nato proprio per il piccolo risparmiatore italiano 3 anni fa, in concomitanza con l'esplosione della crisi legata allo spread. È uno strumento proposto per proteggere il risparmiatore anche dall'inflazione, ma con questo scenario deflazionistico vale la pena sottoscrivere oggi un BTP Italia? Lo chiediamo ai nostri ospiti dopo l'andamento, dopo che abbiamo capito come vanno oggi le cose sulle strade italiane. Cuore e denari. Io mi In questo momento forse non è una borsa che invoglia molto a quotarsi, e infatti Simone Filippetti, proprio un paio di giorni fa, la società Italia Online ha ritirato la sua candidatura per la quotazione. Era tutto pronto, poi questo finanziere egiziano che tu conosci molto bene, perché non mi ricordo se l'hai anche intervistato in passato, sì, Saviris, sì, esatto, sì, anche in quanto di persona l'ho incontrato. Ecco, infatti ha deciso di non procedere, quindi abbiamo avuto un inizio di anno molto scoppiettante per i debutti in borsa, e adesso invece, come dire, le società stanno ricominciando a ripensarci, giustamente cercano le condizioni favorevoli. Qua che è successo, se ne sai qualcosa di più? Sì, veramente è stato un anno in qualche modo a due facce. La prima parte dell'anno con anche le borse e l'equity che saliva e molta liquidità che, come dire, che si muoveva sui mercati, Abbiamo avuto molte quotazioni. Poi da luglio, bisogna fare un piccolo passo indietro, ricorderanno i nostri ascoltatori che ci sono state altre due società che hanno fatto dietro il fronte, la Sisal, quella dei giochi, delle scommesse, e la società farmaceutica Rotta Farm, che poi pochi giorni dopo è stata venduta a un fondo di private equity svedese, se non una famiglia svedese, se non sbaglio. Cosa succede? Succede che in realtà c'è ancora tantissima liquidità in giro, il problema è che questa liquidità sia fatta selettiva. Ora, c'era molta attesa su Italia Online, che è il portale internet che controlla sia Virgilio.it che Libero.it, quindi dei marchi anche molto noti a largo pubblico, e si pensava, insomma, che se Italia Online fosse andata bene, in qualche modo avrebbe in qualche modo riaperto il mercato dopo questa gelata prematura estiva. In realtà così non è stato, e ci sono un'altra decina di IPO, come dire, in pipeline, come dicono i finanzieri, cioè in arrivo, e questo ritiro di Italia Online chiaramente ha gettato un po' un'ombra e dei dubbi se adesso, come dire, il mercato riuscirà di nuovo a riprendersi o se è un po', come dire, per l'IPO nel 2014 è finita. Perché hanno ritirato? Hanno ritirato perché il prezzo che offriva il mercato, diciamo, non era adeguato alle aspettative dell'azionista. Questa però, diciamo, è la versione di Barney, cioè il punto di vista dell'azionista. C'era anche un altro punto di vista. Questa non sta dai bei numeri, però dai multipli anche un po', come dire, a leggere dal prospetto, anche dei multipli un po', diciamo, un po' tirati, un po' alti. Si parlava di un PE di 250 volte sul 2013, sul 2014 sarebbe sceso, però siamo valori molto molto alti, e oggi il mercato non è più disposto a strapagare, certo, le aziende. In più, su un settore, perché è una media company di fatto, anche se c'è l'allure di internet, della crescita molto forte che internet ha in tutto il mondo, di fatto non si sta che campa di raccolta pubblicitaria, cioè di advertising, e la pubblicità in un paese che è in recessione è uno dei settori, lo sappiamo bene noi che viviamo nel mondo, esatto, dell'editoria, è assolutamente in difficoltà. Quindi probabilmente, come sempre, c'è un mix di fattori. L'azionista aveva aspettative alte, che sono legittime, perché magari l'azionista, chi meglio di lui sa quanto effettivamente vale una società. Le banche, che provano chiaramente a portare a casa la valorizzazione più alta possibile, però poi ti scontri anche con quello che è un reality check, no? Dicono, insomma, i finanzieri come fa, cioè puoi fare i conti con realtà. La realtà è che evidentemente a quel prezzo quella società non piaceva. Oggi abbiamo un secondo banco di prova per capire se effettivamente, come dire, questo autunno dell'IPO ci sarà o meno, perché stasera dovrebbero arrivare i risultati della raccolta di Intercos, la società di bolognese che produce trucchi per, è una specie di fornitore, produce trucchi per grandissime aziende del settore, da Estée Lauder a L'Oreal, quindi a Hermès. Cosmesi. Sì, cosmesi, o fornitori di cosmesi, loro producono prodotti, poi tu vai a comprare un rossetto marchiato Estée Lauder, in realtà lo produce la Intercos a Bologna. E qui c'è molta attesa per capire se ce la farà o meno. Gli ultimi rumor, queste sono, insomma, le notizie dell'ultimo momento, pare che ce la possa fare, però andando al minimo della forchetta, il che significa, sarebbe una buona notizia dopo un ritiro, però significa che il mercato è veramente disposto a pagare pochissimo, certo, le aziende. E comunque, insomma, ancora un po' di fermento c'è. Peraltro Poste Italiane, abbiamo notizie se deciderà di sbarcare in borsa a fine anno oppure ha rimandato tutto, non me lo ricordo più, magari adesso riguardiamo un po'. Ma io credo che non andrà prima dell'anno prossimo, sì, del 2015. Sì. Allora, in tutto questo, con Alberto Fo a microfoni spenti, stavamo un po' ragionando sulla capacità degli italiani di continuare a risparmiare, e ragionavamo su un messaggio che ci è arrivato da parte di una nostra ascoltatrice appena siamo partiti con la trasmissione, che ci diceva: io ho, come dire, sono un po' sotto pressione per tutte le tasse che devo pagare e tutto questo non mi consente di mettere da parte granché, e proprio per questo motivo anche molte società simili a quella di Alberto Foà, che è una società di gestione del risparmio indipendente, si sono un po' attrezzate anche per venire incontro, no, alle esigenze di famiglie che non hanno una capacità di risparmio molto elevata, ma come è nella natura dell'italiano, tentano comunque di accantonare qualcosa. E poi abbiamo visto quanto sia stato importante anche in questi anni che tutto questo risparmio sia stato messo in campo e ha certamente protetto il nostro paese da una, come dire, evoluzione della crisi più drammatica. Voi vi siete inventati una cosa che si chiama Gimme Five. Adesso tutti diranno, insomma, fate pubblicità a questa società, però è un modo proprio per, come dire, riuscire a portare le famiglie italiane ad accantonare qualcosa senza, come dire, fare tanti sacrifici del bilancio familiare. Beh sì, diciamo, noi siamo partiti dalla riflessione che oggi in genere il mondo della finanza si rivolge i cosiddetti high net worth individuals, o agli affluent, cioè a quelli che hanno tanti soldi o un po' di soldi. In realtà, andando a vedere le statistiche, l'80% degli italiani che non ha i 100.000 o i 200.000 euro in banca o da parte, però ha una capacità di risparmio. Tanto per dare un numero, che non c'entra con quello che stiamo dicendo, ma tanto per dare un numero, ogni anno in Italia vengono giocati al gioco d'azzardo legale, quindi bingo, lotterie istantanee, poker online, 81 miliardi di euro, che è il 4% del PIL, il che significa 1.700 euro per ogni italiano, neonati compresi. Noi abbiamo creato questa modalità per sottoscrivere i fondi che si chiama Gimme 5, per cui registrandosi sul sito www.gimme5.it si possono poi dal telefonino sottoscrivere i fondi anche con degli importi di 5 euro o di 10 euro con un semplice click del Siete telefonino. Siete partiti da un po', come sta andando? Come sta andando molto bene, abbiamo già oltre 10.000 clienti e ancora non abbiamo cominciato a fare la pubblicità che comincerà nell'ultima settimana di ottobre. Al momento solo è stato, diciamo, un test durato oltre un anno e che comunque ha raccolto. Sì, però abbiamo dovuto, diciamo, raffinare il servizio dal punto di vista tecnologico. Adesso funziona perfettamente, abbiamo tanti clienti e c'è tante persone che a botte di 5 euro magari mette da parte i 100, i 50, i 200 euro al mese, e alla fine questo, alla fine dell'anno, alla fine di 2-3 anni può creare un gruzzolo interessante per farsi una vacanza, comprarsi una macchina, magari comprandosi un grattevinci in meno, che è questo magari anche un po' il vostro... Sì, però vuol dire, noi vogliamo dare una connotazione moralistica a questo. È una possibilità che noi diamo a tutti, a tutte le persone che, a cui normalmente l'industria finanziaria non si rivolge, di poter investire i propri risparmi in maniera efficiente. Buon lavoro a tutti. Allora io vi ricordo, grazie, a Comea il prossimo incontro di appunto divulgazione finanziaria, Stiamo tutti bene, l'evoluzione del benessere degli italiani in 150 anni di storia, al Teatro Parenti di Milano il 3 novembre alle 18.30. Ricordo anche il libro di Simone Filippetti, Serenissimi affari, veneti in borsa fra splendore e declino. Grazie ad entrambi per essere stati con noi. Noi fra un po' parliamo di cicciottini, di grassottini. Cuore e denari. Rosalina, Rosalina, a me piaci grassottina, ma quando è sera, ti sento masticare. Quando è sera, ti ammazzi con i bimbi. Beh, qui ci sono dei grandi dibattiti sul gradimento da parte degli uomini, delle donne un po' più rotondine o meno. Magari questo è un tema che con Nicoletta affronteremo al più presto. Noi oggi, come dire, affrontiamo questo argomento da un punto di vista diverso. Scendono i mercati, ma a non scendere purtroppo molto spesso è il lago della bilancia. Succede che nonostante noi ci impegniamo anche a modificare la nostra dieta e ci impegniamo a dedicare regolarmente un po' del nostro tempo all'attività fisica, il peso resti sempre lì, inchiodato, quella lancetta non si muove, invariato. Oggi è un giorno importante perché è la vigilia di un altro giorno altrettanto e forse più importante, quello di domani, è l'Obesity Day, e di sovrappeso e obesità vogliamo parlare con la professoressa Daniela Lucini, associata all'Università Milano e responsabile sezione di medicina dell'esercizio all'Humanitas. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno, a Cuore Denari. Allora, tra l'altro voi siete pronti anche con una iniziativa molto importante che coinvolgerà la città di Milano, adesso la racconteremo per tutte le persone interessate, ma andiamo subito al cuore di questo problema a cui i nostri ascoltatori appunto prestano grande attenzione. L'ho già visto dall'inizio del programma, l'abbiamo cominciato a lanciare già, ci sono tanti messaggi. Mangio poco eppure sono in sovrappeso, quante volte l'abbiamo sentita, professoressa Lucini? Direi che è una delle espressioni che io sento praticamente tutti i giorni, una regola questa. Una frase che racconta che spesso non siamo proprio del tutto consapevoli di quello che mangiamo, oppure abbiamo una visione un po' rosea, no? Anzi edulcorata di quello che mettiamo nel piatto. Allora, come possiamo fare intanto per fare un po' più di attenzione a quello che mangiamo, che poi inevitabilmente si traduce in aumento e spostamento del lago della bilancia? Allora, innanzitutto, giustamente, come stava dicendo lei, la cosa importante è la consapevolezza. Una consapevolezza reale di quello che in effetti io mangio e, d'altra parte, una consapevolezza vera di quello che è il mio stato di salute. Come fare per averle? Nel primo caso, uno dei metodi più banali, forse abusati, ma che hanno ancora un suo significato, è quello di fare un diario alimentare, però vero, sincero. Cioè a dire, come dico io ai miei pazienti, devi scrivere tutto quello che entra in bocca, fosse anche acqua. Molto spesso con queste cose la persona si rende conto che pensa di mangiare poco, in realtà mangia di più. Questo perché quello che frega, soprattutto quando ci sono persone che fanno una dieta, che sta attenta e che magari pongono una certa attenzione a quelli che sono i pasti principali, il pranzo, la cena, però magari durante la giornata non si accorgono, ma la caramella, il cioccolatino, il biscottino, il pezzo di pane che è avanzato al bambino, eccetera, eccetera, in realtà vengono assunti. E anche quello, incide, no? Perché anche ecco, questa immagine della mamma, per esempio, che termina il piatto del bambino che ha lasciato lì delle cose perché non ha finito appunto di mangiare, non è magari qualcosa che nel diario mentale alimentare, esatto, verrebbe messo, ma se venisse trascritto nero su bianco, uno se ne rende conto. Vero? Oppure è avanzato qualche cosa a mezzogiorno, l'ho lasciato lì mentre sto cucinando per la sera, finisco quello perché mi dà fastidio e poi mi siedo a tavola. Sono in ufficio, c'è qualcuno che sta mangiando il cioccolatino, me ne hanno offerto uno, ma cosa vuoi che sia un cioccolatino? Come si fa il diario giornaliero dell'alimentazione, dottoressa Lucini? Professoressa Lucini, ci dia subito qualche indicazione, vediamo. Allora, se... come farlo? È molto banale. Una persona può o farsi un suo schema, quindi un bel foglio, e dividersi delle colonne dove metto colazione, pranzo, cena e poi un'altra colonna con scritto varie, proprio tutte queste cose qui che succedono. E poi le righe sono i vari giorni. Viceversa, ancora più semplice, prendo la mia agenda o prendo il mio tablet e nella giornata di oggi tutto quello che io mangio lo vado a segnare: ore 10 cioccolatino, ore 12 piatto di pasta con tutto. In modo tale poi, se io ho la possibilità di guardarmelo da sola o ancor di più se ho qualche professionista che mi aiuta a fare dei ragionamenti su questo, io posso veramente avere una consapevolezza di quello che sto facendo. E poi si può fare tutto anche un conteggio chiaramente delle calorie complessive che vengono consumate, una presa di coscienza importante. Esatto. Ancor più importante del conto delle calorie è la qualità di cosa io sto mangiando e di come viene preparato, nel senso che a parità di cose, ad esempio io posso mettere un piatto di pasta, bene, un piatto di pasta può voler dire tanto e può voler dire nulla, perché se io questa pasta l'ho condita e con il sugo e con l'olio e con la pancetta e con l'uovo dentro e con il formaggio grana sopra, eccetera, eccetera, è un conto. Se io quella pasta l'ho condita con delle verdure, con dei sughi fatti senza olio, se è integrale, di questo genere, esatto, la pasta magari è integrale, è un altro discorso. Certamente. Allora, io invito gli ascoltatori in questi 12 minuti di tempo che ci separano dalla conclusione del programma, l'invito appunto a chiamarci. Se qualcuno ritiene di essere un pochino sovrappeso, con qualche chiletto sopra, chiamateci e magari vi aiutiamo a provare a stilare questo diario alimentare di questa giornata o magari della giornata di ieri, che chiaramente è completa, e vediamo se riusciamo ad intercettare con la professoressa Lucini qualche errore che si può correggere e che poi si può trasformare anche in miglioramento della condizione del peso. 800 24 00 24 anche per tutte le altre domande appunto che riguardano questa condizione di sovrappeso, che è un problema che ciclicamente interessa un po' tutti. Professoressa Lucini, voi naturalmente sconsigliate le diete fai da te, ma se i chili da perdere sono pochi, diciamo che teoricamente tutti siamo in grado di operare delle piccole correzioni al nostro stile alimentare per tornare in forma. Lei è d'accordo su questo? È vero, io sono d'accordo, anche perché, cioè, a me non piace il concetto di dieta. Una persona deve imparare a mangiare, deve assumere delle abitudini alimentari che le permetteranno di ottenere il peso ideale per quella determinata persona. Quindi la dieta non è una settimana, un mese, un anno, esatto, e poi torno come prima. Questo è sbagliatissimo. Quello che conta è, io imparo delle regole, imparo dei trucchetti, e alla fine, magari all'inizio sono seguita da qualcuno che mi aiuta, ma alla fine devo arrivare a fare da sola o da solo, perché altrimenti non serve. Tornando alla domanda, posso, se i chili sono pochi, posso fare il fai da te? Se i chili sono pochi vuol dire che tu sei già bravo a stare attento e a fare delle cose, no? E quindi il fai da te può andar bene, soprattutto se questo fai da te porta dei risultati e qualche principio importante lo sta seguendo. Io direi di stare attenta invece a quei fai da te che in realtà non sono fai da te, ma sono suggerimenti o mode del momento. La dieta X, la dieta Y, e mangia soltanto questa roba che perdi 5 kg in 3 giorni. Ecco, su queste cose dobbiamo stare attenti. Assolutamente, anche perché poi, come lei ben saprà, professoressa Lucini, quando poi si ritorna ad un regime alimentare, non dico esagerato, ma normale, si riprende tutto, e anche con gli interessi, per parlare, per utilizzare un termine... Io, questa è la seconda cosa più comune che sento, esatto, io in ambulatorio tutti i giorni, ma io l'ho fatta la dieta, ma io ho già perso anche tanti chili, ma appena ho smesso li ho ripresi con gli interessi, ecco, era meglio non farla, esatto, potremmo da un certo punto di vista dire. Tra l'altro, qualche volta è anche vero che madre natura ci mette il suo, c'è chi per propria costituzione, se lo stanno segnalando molti ascoltatori, è fortunato, è appunto, può mangiare tutto quello che vuole e non prendere neanche un grammo, chi invece, come la sottoscritta, metabolismo lento, un po' la tiroide che fa chiaramente qualche bizza, e deve stare più attenta, non c'è niente da fare, vero. Dobbiamo rassegnarci, però per fortuna possiamo variare tranquillamente l'alimentazione per farcela andar bene, anche se dobbiamo tenere un regime alimentare un po' più sotto controllo. Un ascoltatore ci scrive, Luca da Brescia, professoressa Lucini, che da luglio, dal primo luglio, ha perso una decina di chili, corsa, crossfit e mangiare frutta, verdura e pesce, e non mi pare che lo scriva con grande depressione questo messaggio. Questo è un bel messaggio, vero, nel senso che ha messo insieme le cose importanti, cioè assolutamente l'attività fisica, poi magari vediamo quale attività fisica può andarci bene, e ha messo dentro frutta e verdura, quindi un cambio qualitativo dell'alimentazione. Questa è un pochettino, detto in maniera molto semplice, uno dei principi più importanti. Marco dalla provincia di Venezia all'800240024 ci racconta proprio che questo yo-yo è la costante della sua vita. Marco, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno a lei e alla sua ospite. Io ogni primavera faccio una cura che è fra il depurante e il dimagrante. Sì. E dimagrisco, cioè 10 kg, 12. Poi piano piano li riprendo sempre tutti. La prima volta che l'ho fatto, molti anni fa, ne ho persi 16 e non li ho più ripresi. Bravo. E però ogni anno poi succede questo, capito? Io poi ho una vita anche un po' sregolata, mangio malamente, non mangio la pasta, ho gli zuccheri un po' alti, quindi diciamo che non ho una regolarità, e non mi piace neanche la pasta, neanche ne soffro. Però, lo so, quando la mangio, hai capito, il giorno dopo c'è un chilo in più addosso. Ecco Marco, allora sì, intanto devo dire che c'è qualche persona che ha proprio questa facilità, no, di perderlo, riconquistarlo, di fare questo yo-yo immediato. Però professoressa Lucini, forse Marco ha detto proprio la parola magica, costanza, continuità. Esatto, perdere per poi riprendere non solo non ha senso, ma veramente può essere dannoso per la nostra salute. Molto spesso magari è facile perdere in fretta del tessuto adiposo deposto a livello sottocutaneo, è molto più difficile perdere quello cosiddetto viscerale, cioè quello proprio interno vicino ai visceri, che è quello più pericoloso da un punto di vista cardiovascolare. Quando però io perdo e recupero in fretta, vado molto spesso ad aumentare quello viscerale, quindi non è soltanto una questione di bilancia, ma anche una questione di dove vanno a finire questi chili. Tant'è vero, penso che tutti abbiano provato magari in queste diete dove perdi tanto, magari subito è la faccia quella che perde, no? Sì. Quasi quasi come sei sciupato. Ecco, non è lì che dovremmo perdere, è da altre parti. Quindi Marco ha ragione, è la costanza ciò che serve, e magari è meglio perdere meno chili però mantenere poi i chili che sono stati persi. Quindi questo significa che sono anch'io d'accordo magari nell'avere un programma alimentare inizialmente un pochettino, certo, più rigido per avere dei risultati. Poi viene trasformato in quello che noi chiamiamo mantenimento, quindi in programmi un pochettino più morbidi, ma dove le regole generali diventano abitudini di vita. Anche e perché, in questo caso si evita lo yo-yo. Come mi ha insegnato Nicoletta, quando facciamo la trasmissione insieme, poi anche il metabolismo va in confusione e quando gli si sottrae un determinato numero di calorie, quando poi queste ritornano, il corpo le acchiappa tutte e accumula chili per naturalmente proteggersi quando vengono a mancare. Detto questo, c'è un'osservazione molto divertente di Oscar di Pesaro al nostro indirizzo di posta e ci scrive: io vorrei domandare ai vostri medici perché il cervello continua a chiedere l'hamburger con tanto di maionese, ketchup, formaggi e patatine quando già riempito lo stomaco con frutta e insalata, perché effettivamente il grado di sazietà ha una qualità diversa. Sì, professoressa Lucini, è vero, perché, ma addirittura ci sono degli studi bellissimi in questi anni che fanno vedere come il cibo e soprattutto la combinazione di carboidrati, grassi e sapidità di sale, quindi può essere la pizza, ma come può essere anche una fetta di torta, hanno proprio un'azione su quelli che vengono chiamati centri del reward, cioè proprio i centri della gratificazione. Hanno un'azione che è simile addirittura a quella di alcune, diciamo così, droghe, usiamo questo, o perlomeno se non droghe, pensate solo alla nicotina con il fumo, cioè la combinazione di questi cibi va a stimolare quei centri che ci danno gratificazione. Attenzione però a una cosa, che questi centri si abituano ad avere una determinata cosa e se io poi non ce l'ho, ho il desiderio. D'altra parte però se io mi abituo ad averla di meno o ad averla in modo diverso, ecco quindi che le cose vanno meglio. Non dobbiamo confondere il concetto di dieta o alimentazione salutare che ci fa dimagrire con un qualche cosa che non è buono, cioè ci sono anche dei cibi gratificanti, ma che sono gratificanti anche per la bilancia e non soltanto per il cervello. Allora, prima di sentire se ce la faremo, perché ci mancano solo due minuti, Beppe da Bari e Simone da Livorno, vorrei, professoressa Lucini, che ci raccontasse che cosa farete a Milano prossimamente con l'iniziativa Crescere in Salute. Allora, quello che faremo è che nel weekend, dal 25 al 26 ottobre, saremo al Museo della Scienza e della Tecnica con tutta una serie di iniziative rivolte al pubblico, sia al pubblico bimbi, perché è da lì che parte l'educazione, sia al pubblico adulti. Cioè, che cosa faremo? Avremo dei giochi, avremo dei laboratori creati apposta per insegnare ai bimbi, e non solo bimbi, ma anche ai ragazzi, come scegliere che cosa mangiare, anche con tutta una serie proprio di esperimenti, diciamo così, tecnologici che insegnano queste cose. Per gli adulti avremo degli stand, ma soprattutto, ad esempio, la possibilità di calcolare degli indici di salute con dei questionari particolari, con delle cose che abbiamo messo a punto, proprio per rendersi conto di come una persona sta. Torniamo al punto di prima, la consapevolezza. Non è solo la consapevolezza del mio diario alimentare, ma la consapevolezza del mio stato di salute, consapevolezza del mio stile di vita, quindi che cosa mangio, ma quanta attività fisica faccio e quant'altro, e anche se vogliamo consapevolezza medica, cioè ma questi chili è tessuto adiposo o sono muscoli? Certo. Dove sono messi questi chili? Come sono i miei esami del sangue? Ecco. Prima di partire a fare queste cose, un'idea di come io sto è fondamentale. Assolutamente. Allora, non riusciamo a sentire Beppe e Simone. Solo in 10 secondi, professoressa Lucini. Beppe chiedeva se devono essere fatti più pasti al giorno. Non vorrei che questa diventasse la giustificazione per la dieta, mangiare tutte le ore. Anche lì bisogna stare un po' attenti. Attenzione, sì. Diciamo così, dobbiamo evitare di fare un carico solo al giorno, soprattutto se è un carico serale, è meglio dividere durante la giornata, però non vuol dire mangiare di più. Certo, ovviamente. Grazie alla professoressa Daniela Lucini, grazie a Marco Lombardo, a Lucia, di cui non mi ricordo mai il cognome, Tolve se non mi ricordo male, Carmelo Lauricella. Noi torniamo, anzi io torno lunedì, domani Nicoletta con voi da sola. A tutti buona giornata. Cuore e denari.